nessuno, dammi la tua mano, vieni sul mio seno, voglio per te tesoro, aria pura, cielo sereno, suonano campane, dondola il mio cuore, al tuo solo apparire, il vento innalza vele, fiori sorridenti trionfano nei campi, all'alba i pescatori rientrano contenti. Vita della mia vita, mano delle mie dita, corpo della mia meta, sorella della mia strada, luce delle mie vene, ombra della mia estate, acqua della mia sete, fuoco delle mie pene, suonano campane, dondola il mio cuore, al tuo solo apparire, il vento innalza vele, fiori sorridenti trionfano nei campi. All'alba i pescatori rientrano contenti, suonano campane, dondola il mio cuore, al tuo solo apparire, il vento innalza vele, fiori sorridenti trionfano nei campi, all'alba i pescatori rientrano.